Buonasera. Ascolta, che sto facendo una prova. Una prova. Adesso ti attacco un attimino l'amplificatore, mi dici se cambia la radio e il segnale. Ok. Bella la modulazione, già va bene. Allora, guarda un attimino, mi dici se ha cambiato la modulazione. Sto usando un altro apparato, Allora, così resta appena più cupa. Ah, poca roba, almeno qua. Aspetta, Guarda adesso, si è cambiato, appena. Per me... Forse... Ma appena è ancora il QAT. Però è abbastanza buona. Aspetta, al limite. Guarda adesso, si è cambiato. 1, 2, 3, prova. C'è un rumore sottofondo, ti stai gracchiando. Bene, aspetta, qui faccio delle prove. Ora. Ecco qua. Guarda così. Fallo di nuovo, ti, che ero un attimo impegnato. Va bene, guarda un attimino. Ora, 1, 2, 3, prova. Stai innescando, tenuto a fischi, sì. Sì, lo so, aspetta. Mettiamo. Ora. Mettiamo così, aspetta. Si sente il gracchiare, ti. Ora. 1, 2, 3, prova. Ancora? No, perfetta adesso. Perfetta è... È da valutare con l'altra radio. Però non sta più gracchiando, va vero? Sì. Adesso, cioè, perfetta, sto facendo più... Puoi gracchiare, però adesso è appena più cupa di prima, ti. Ora. Così, guarda un po', 1, 2, 3, ancora cupa. È appeggiorato. Mettila come era all'inizio, al secondo passaggio. Sto toccando così all'interno, quindi. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedi un po', aspetta che accorgo. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda se va bene questa modulazione. C'hai nuovo il fischio, ti. Ora. Vedi un po'. Sei cupa, non è più come prima, l'hai troppo pressata. Già può essere. Aspetta. Ora. E adesso? Vedi un po'. Lascia così, ti, non toccare niente, poi fai le prove magari con Claudio, che c'ha più orecchio con l'altra radio. Per me adesso può andare. Ma non è che può andare, deve andare, che è diverso. Vedi, la radio, la modulazione è simile all'altra, oppure più compressa, forse satura. Compressa e compressa, ti, però sta andando e diventando più chiara, capito? Più limpida. Aspetta, Ora. Ora, 1, 2, 3, prova microfono, prova di modulazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ora, vedi un po'. Sì. di nuovo un rumorino sotto. Come fai? Ola, ola, ola, sento leggermente gracchiare. Sì, come smetti di fare? Ora si sente il gracchiare. Aumentiamo un pochino il volume. Ora, uno, due, tre, prova. No, prova a diminuire gli RT, Watt. Si sta andando a comprimere. Ma è quello. Ora, ora. Adesso dovrebbe andare meglio. Guarda un po'. Sì, si è schiarita T. Lascia così adesso, che è ancora più limpida di prima. Aspetta. Guarda adesso, ho migliorato la radio. Fai un passaggio più lungo. Vedi un po', guarda, perché sto facendo delle regolazioni, ma vedo che ora è in positivo, poc'anzi era in negativo, capito? Era più... mi ha fatto nuova leggermente cupati. Un pelo. Se riesci a farla più chiara di un pelo, va ancora meglio. Sì, aspetta, eh. Ora. Ora. Ora. Porca miseria, non riesco. Sono talmente sensibile. Hola, hola, hola, hola, hola, devo sempre accordare, hola, hola, 1, 2, 3, hola, 1, 2, 3, prova, così com'è? Sembra che vada bene, T. Sembra. Poi, ripeto, bisogna sentire Claudio che lui c'ha l'apparecchio più serio. Ma quello è pensionato, adesso sarà con il cazzo, quindi non conviene disturbarlo. Adesso se no va a fischi. Porca miseria. Ora, 1, 2, 3, vuol dire che lo devo togliere questo apparato, no, non va bene. Aggiusti una cosa e si rovina l'altra, troia. Quindi adesso non senti neanche se io c'ho ancora quel fischio T. No, aspetta un attimo. Allora. Ora, ora. Vediamo così se è cambiato qualcosa. Ora, ora. Ora, ora, ora, 1, 2, 3, prova. Così com'è? Adesso è dato quel pizzico che mancava prima, più chiara. Ma non sta spingendo, così non mi piace. Lui deve camminare. Sei sceso appena di segnale, sei a pelo di nove, almeno dal mio smitter. Però i picchi positivi sono parecchi. Ma no, aspetta, eh. Ora. Guarda a vedere se cambia. Ora, 1, 2, 3, prova. Lasciala così, T. Se vai ad aumentare i nuovi watt, vai a compressare troppo la modulazione. Lo so, però è inutile avere una... Cosa ti posso dire? Non faccio un paragone con una Ferrari, però voglio dire, è inutile che hai una Ferrari e vai a 20 all'ora, hai capito? Con questo apparato non va bene. Allora quel microfono lo fa spingere. Non sta spingendo. No, no. Lo sento. Ora, ho capito cos'è. Adesso non lo sta facendo l'innesco, vero? No, adesso ho smesso, prima sì. Ora sì, vero? K. Ho capito, aspetta un attimino. Ora. E ora la radio com'è? Lascia così, ti, non aumentare. Ma sta andando comunque ora. Dico, non è in saturazione. No, va bene. Se aumenti, poi va a distorcere troppo. No, è un'altra cosa, aspetta. Ora. Devo aumentare un attimo le volte. Ora. Com'è? Va bene. Ma dopo dico cos'è. Adesso gli sparo altri sbatti dentro, aspetta. Ora. Ma i picchi come sono? Positivi? Ora. Quasi. No, non aumentare troppo, sennò poi vai in saturazione, già sei al limite. Vabbè. Aspetta. Ma non fa una nota qua. Stando solo a 150 watt, non va bene. Non sto spingendo, non lo fa spingere bene. No, e poi innesca quando, vabbè, quella è una questione di massa. Però... sempre non che mi può fare. No, non va bene. Ci ho voluto provare di nuovo. Gava. No, è una modulazione strana, ti fa, le volte è limpida, poi come vai a aumentare qualcosa va a essere compressa. Va bene. Adesso mettiamo. Adesso però guardami qua, aspetta, Ora. Con l'innesco già ho capito cos'è. Allora, aspetta. Così, siamo. È una carriera di massa che... Ora. Così la radio com'è? Va bene? Sì, ti, 5 è chiara pulita. Ma è troppo forte, troppo amplificata, com'è? Guarda, se puoi abbassare un pelo, ma pelo va ancora meglio. Ecco qua, abbassata. Ora, sì dai, sono 8 watt così. No, va male l'amplificazione. Dalla l'amplificatore. Andale. Ma adesso da me fischi, senti, ti. Prova che aumento il volume. Sta innescando, aspetta. Sto innescando perché ci vuole la massa del microfono. Mi dimentico, se tolgo la mano, guarda. La rimetto, tolgo, la rimetto, hai capito. No, non la sento in questa parte. Gava. Perché ha spiegato che se ridò, se chiudo troppo l'eco, allora si sente quel problema lì. Ho capito. Vabbè, spero che cambia l'antenna all'altro, ti metto quella che ce l'ha qua. Gava, fai. Oh. passaggio più lungo, T? Sì, va bene, aspetta, ora andiamo bene. Ora, 1, 2, 3. Vai, questa è perfetta. Non riesco a capire, aspetta. D'accordo. Cava. Lì lo senti il fischio in quella radio, T? No, qua no, perché è un po' sola. Aspetta, proviamo un'altra. Cava. Hola. Prova. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. No, non c'è bisogno di urlare, perché già il microfono spinge molto la radio. Parla tranquillo, perché tanto si urla non cambia, ma si sente che stia urlando. Gava, guarda adesso, 1, 2, 3. Perfetto, così va bene, quando parli così va bene. C'è molta amplificazione sul microfono, c'è, sente anche gente dietro di te. Lo so, questo è un microfonino normale, vedi? Non è niente di che. Però sento la gente che era giù in cucina, a tutte le parti. Lo so, va bene. Che boh, qua sono... Devo provare un altro amplificatore. Cosa ti... Ho detto che voglio provare un'altra soluzione, dai. Aspetta che attacco un'altra cosetta. Eia. Ora. 1, 2, 3, Daniel. Questa mi sale troppo alta, abbassa appena, ti? È troppo alta, l'amplificazione. Eia. Ecco qua, lo so, aumenta anche molto l'amplificazione. Adesso? Adesso è perfetta, va bene, non tocca a nulla. Vabbè, ma a me mi interessa anche il segnale, se è migliorato o meno, capito? Il segnale sì, tra il 9, cioè quasi a 9 pieno. Guarda se aumenta. 1, 2, 3, prova. Ola. 0, sempre lì fermo, senti. Ma è un pelo lì che aumenta, non è questa grossa cifra che vai ad aumentare. Lo so, però guarda così, 1, 2, 3. Sempre fermo. È avaro questo smitter, no, non è danno. L'avaro cosa mi dici? Qua lasciala così, la radio è sempre uguale, è perfetta. Ma è uguale all'altra? Simile, però questa è più limpida. Ho capito. Vabbè. Niente, devo fare delle prove, vedere. Mi serve gente che ha lo strumento un pochino più performante. Cava. Sì, questo è lo smitterino dell'Alan 48, già. Cosa vuoi? È giocattolo. Vabbè, io ti devo lasciare, se no qua oggi mi tirano giù a forza dal soppalco. Ci sentiamo dopo se coincide. Ehi, vai tranquillo, non c'è problema. D'accordo. Cava. A dopo, dai. Buon proseguimento e buon tutto. Altrettanto. Ciao. C'è nessuno? Attenzione, canale 10. C'è nessuno? Avanti? No. Buonasera. Come la fai? Buonasera, stiamo a fa bravo, già fatto. Aspetta, non ho capito chi sei, arrivo un po' disturbato. Alfa Bravo Gianfranco, mi senti? Ah sì, ciao Giacomo, ero appena colpa mia. Sì, molto amplificato. Ho capito, ho abbassato un pochino già fra, vedi un po', perché no, non vorrei che andasse in distorsione, ecco, più che altro. No, adesso no, sembra che vada bene. Io sto guardando qua, stavo filmando tutto, c'ho l'antenna che era già 3 giorni strapazzata come dentro un frullatore, guarda. Cioè le antenne. C'è un vento veramente micidiale. Sì, ma dov'è? Non la porta torre? No, io sono Sassari, non so, forse arrivo basso perché sta talmente oscillando questa antenna che ovviamente no, bene non le fa. No vabbè, qua arrivano segnali di 7, quindi ho capito, pensavo che era un po' più lontano il Sassari, dai. Che zona sei tu? Diciamo in periferia della Teolce, dai, poco più giù della Teolce. Quindi Sant'Orsola più o meno, eh? Ma parte opposta, qualche sì, vabbè, diciamo lì, in quelle parti lì, verso Patamona. Segnale basso, tu sei 9.25, non so neanche con quanto sto uscendo tu, è tutto regolare, più o meno. Vabbè, i segnali sono relativi, l'importante è che mi senti. Sì, no, ma sto provando un amplificatore, ecco, perché guardo, lo attacco così mi fai il riferimento, magari così, attaccato e staccato, ok Gianfra? Ok, prova. Ecco, così è normale, senza niente, sicuramente è abbassata anche la modulazione. No, ma la modulazione è più o meno la stessa, 6,9, diciamo 9,15 dovrebbe essere, tra il 9 e il 9,20. Quindi c'è cambiamento, eh? Ma come al solito a questi segnali di pochissimo, non è che dando 50 watt in più vede il segnale, ecco. Vede il segnale se ce ne sono molti, ma a quei valori, a queste frequenze, ci sono pochi dB, capito? No, vabbè. Mi interessava più che altro che non distorceva la radio perché stavo facendo degli abbinamenti, quindi questa è una radio che posso alzare sino ai 10 watt con dall'esterno, diciamo, internamente non era 40, ma 40-50 solo che va in saturazione, quindi ho preferito abbassarle dall'interno e portarle alla massima potenza dall'esterno con il cursore, diciamo, capito? L'importante è che non rovini la radio e che vada bene. E poi volevo verificare, magari attaccando un amplificatore, se distorceva o meno. Ok, così va bene allora, dai. Sì, va abbastanza bene. Più o meno tutta la radio si può aumentare anche a valori consistenti, però poi bisogna vedere come e dove trasmettono, perché iniziano a creare armoniche e andare perché i filtri non vedono, quindi un macello. Va bene, no, questo è giusto per gioco, io utilizzo l'altro, questo era per vedere se andava in distorsione o meno. No, in distorsione non ho notato, poco fa era un po' troppo amplificata, ma poi quando ho abbassato va bene, ecco. Abbastanza bene, niente da dire. Ho capito. Ma mi stai ascoltando con una KF? Sì, con un solito apparecchio che uso sempre qua. Poi sto cercando di smaltirne un po' perché sono troppi oramai, no? Tra apparati e antenne è una cosa un po' esagerata, quindi bisogna svoltire perché non ne ho più voglia. Oramai c'è praticamente anche 5-6 volte al mese queste tempeste di vento, sono le scatole piene di uscire, di parare di poli, cambiare cavi, è un lavoro è diventato, quindi devo potuto ridimensionare a qualcosa di un pochettino più più pratico, là. Ho capito, vabbè. Lo so di cosa stai parlando, quindi ne mettiamo mano quasi ogni giorno, quindi. Infatti, figurati, chi è solo, poi che deve salire a 10 metri, dall'altezza, con una scaletta fina, in cui non sono messi i rulli, perché se poco cadi, hai fatto la frittata. E poi con tubi altissimi, arrivano quasi a 20 metri, quindi stai aguantando una scocciatura e basta. Quindi, anche perché non serve a niente alla fine, oramai, con le tecnologie ci sono. Sono un po' inutili, ecco. Vabbè, questo è un po' tutto da vedere, perché chi amante della radio, no, ce l'ha, la tecnologia la utilizza per altre cose, perché come tu sai benissimo è entrato in ballo anche questo Cibitar, che ora stanno utilizzando queste cose, ma effettivamente è un po' relativo alla cosa, a chi può interessare e a chi meno. A me sinceramente non mi interessa, l'ho provato e non è una cosa, è in digitale, quindi mi piace più non parlare di questa cosa qua. Sì, no, a me ogni tanto li ascolto e devo dire che va abbastanza bene, anche dal punto di vista delle latenze, sembrerebbe. Però io utilizzo un altro sistema, sempre diciamo semisimile, che mi dà copertura dappertutto, però è in funzione dei relativi apparati. Io giusto qua sono in analogico, ma tutti gli altri sono digitali. È digitale professionale, quindi non è neanche a livello amatoriale. Ho capito. Vabbè. Ognuno ha i suoi gusti. Sì. E purtroppo ho visto che nonostante, anzi forse per quello, siccome oramai stanno vendendo pochissima roba, stanno anche aumentando i prezzi in maniera anche ingiustificata. Quindi, così. Comunque, per quanto possa anche non piacere, Cibitar che c'ha il pregio di aver fatto uscire fuori un po' di gente. Ah, sì, vabbè. Giusto per gusto, a me conoscere benissimo Vannino, stiamo facendo un lavoro niente, me l'ha proposto, però adesso vuoi farlo, ma non ne frega niente, ma che vabbè, l'ha fatto provare. Sì, beh, vabbè, la curiosità c'è, ma poi non costa niente tanto ascoltare. La cosa più interessante è la notte, è vero che a orari impossibili, a me è capitato di fare ascolto alle 3, alle 4, c'è sempre gente, molti che lavorano, che sono in viaggio, eccetera, quindi queste ore iniziano a diventare interessanti a quelle ore, che non c'è molta confusione, eccetera, quindi vedi un po' la vita a quelle ore, cosa succede? Sì, una volta l'abbiamo voluto provare così con un altro amico, tra poco ci sgridavano perché, cacchio, il canale era loro. Poi vabbè, per non essere scorbutici ci siamo telefonati direttamente per non fare mandare lì in quel paese, però la gente se n'è appropriata così. Oggi ha deciso, si è alzata, ha deciso adesso mi prendo il canale 11 e così via, e così hanno fatto il canale per camionisti, quello per i camperisti, quello per... va bene. Sì, ma non c'è motivo, tanto ce ne sono talmente tanti liberi, la maggior parte si può dire che sono liberi, quindi non ha senso, non ha senso quelle cose, capito? Vabbè, non è perché... ecco, stava partendo, detto, provalo, vediamo, finché ci sentiamo, quando sei in acqua, vediamo se dove arrivi, poi, vabbè lì, era una, se non mi sbaglio, una distanza massima di 30 km, se non mi ricordo, non siamo neanche arrivati a 30 km, quindi abbiamo chiuso subito, ci siamo telefonati, ci siamo salutati, anche perché poi c'era la partita, quindi volevo guardarci la partita via mare, e niente. Funziona finché c'è copertura, ecco. Nel momento in cui manca la copertura dalla rete cellulare, ovviamente, o anche solo se c'è un pochino di diminuzione, se passa dal 3G al 2G, insomma qualche colpo lo prende. Ma è cap. C'è stato da più, non sono sbagliato. Ma guarda, se non sbaglio sei fuori frequenza o sei in FM, perché io non riesco a ascoltarti bene. Io non ascolto, ma è tutto confuso. No, ma è fuori. Non ci sei, eh? È migliorato un pochino, però non è ancora molto chiaro. Prova. Abbassa, stacca, ci devi staccare, perché è incomprensibile la radio. A chi sei, Marino? Marino, non riesco a capirti, ciao. Ciao Marino, buonasera, ma cosa ti è successo? Io lo sento molto saturo, molto gracchiante e quant'altro. Qualcosa di strano è successo, Marino. Questo passaggio ti ho sentito, ma sei bassissimo, sei Santiago 3, se apri la finestra ci tocchiamo la mano. Adesso non sono, adesso è migliorato. Siamo usciati, allora. Ancora un po' tu dovresti abbassare l'amplificazione. Abbassato, vai. Buonasera, ma io forse la mia radio. Ma tu non eri in campagna, ciao Flavio. Tu hai detto che stavo andando via, sono arrivato adesso, ma chi è, Marino? Sì, Carlo Flavio. Ma ti stai scendo così al cazzo di cane, si può sapere? Adesso, boh, non ho toccato nulla, Tu passi di questo? No, non avete capito ancora, no Marino? Non avete capito una cosa, che quella radio, tu quando l'accendi non ci puoi parlare subito, non puoi andare a toccare i watt e regolarti i watt. Devi lasciarla scaldare, è una radio del cazzo, ok? È un baracchino a sintonia continua 140. Non si può accendere e mettersi a parlare, perché rischi di bruciare i finali. Capito, te l'avevo anche detto. Quella che l'ho lasciato scaldare, l'ho lasciato scaldare, lo Flavio. Vabbè, ci siamo 10 minuti, tutti continuate. Dicevo Tino, se ti sei stata una bella palmetta ai 12 metri, vai. Una palmetta? Una palma ai 12 metri. Guarda, ho una brutta esperienza della mia che non era 11 metri, ma ci volevano due persone buone grandi a abbracciarla. Il punteruolo rosso si è fatto la tana. Se non riesci a imbarcarcela questa, anche a me la voleva dare. Ma mia è quella del punto rosso, la mia è quella che sa lottare il Figaringa, una bella paletta, non è di quel tipo, Tino. Mamma mia, ma tu lo capisci, Tino? Ma che cosa hai toccato? Il Mickey Gaines, sei senza processore, sei col processore. Quando abbiamo fatto le prove l'altro giorno, mi hai chiesto il controllo, di perfetto. Ma non ho toccato nulla, Claudio. Ok, ci vediamo dopo, dai, lasciamo scaldare un pochino, dai. È un 12 metri, Tino, un 12 metri, vabbè, cioè, non è di quella malata, è bella strana questa qua, La sto regalando, se no vuoi venire da fuori via. Ok, a più tardi, dai. Lasciala lì, che già sto combattendo tutto di questa qua ancora. Grazie Marina, il pensiero però. Poi ci vuole il camion blu, ci vuole la scavatrina a fare il fosso, no. E ti dura 2-3 anni e poi si secca. No, non mi interessa, grazie. Devi copiare se la porti via, ciao. Non vedo, non so che darla, già fra riprendi. Sì, ciao Marino, ciao anche Claudio, buonasera. Oh Claudio, vedi giù quindi, visto che è freschetto, che c'è? Che c'è una leggerissima brezza, si fa benissimo. Infatti siamo andati via. Mi sto arrivando, mi sto mettendo le foglie dove scarpe. Metto le ciabatte. Ma no, non rimango in radio, vai. Mi guardo un po' di TV. Perché c'ho anche male in testa. Ok, ci sentiamo dopo al limite. Fate buon proseguo, vai. Marino ha fatto. Ieri quando è andato ieri c'era anche Giulio, è entrato, una bellissima radio, tutto a posto. Ma la maniera che ho detto 40, riaccendere e mettersi a parlare. Radio Lucifera. Mamma mia, gara che. Aspetta, aspetta un attimino qua, devo accendere un altro e diamo un controllo veloce. Ma io, cos'è che vai tu, su, ha scritto un radio, vai. Vedi un po' qua, si è migliorato, e dammi il segnale radio, Il segnale è sempre lo stesso, 9+20 radio 5. Ah, quindi va bene, perché ho attaccato al president questo, Va bene, ottimo. Ho capito, lasciamo questo allora. Va bene, grazie. Ehi. Questo c'è la mente campagna, Gianfra. Manca qua carbonati. Sente fruscelli. Grazie a Dio, li aggreccare. Ma è già 3 giorni fa storia, siamo oramai, io qua sono un giorno sì, un giorno no, il vento. Infatti stavo dicendo che sto rompendo e abbasso tutto e buono calzetto, tanto per quelle che le uso. Guarda, io ne stavo parlando stamattina proprio con Massimiliano, abbiamo fatto operazione assieme. Io appena arrivo al tempo bello, non devo stare con queste preoccupazioni. Tanto devo scendermi, devo toglierle perché devo fare anche manutenzione al rotore. Quindi ne scendono le piastre più basse, cioè non devo stare con queste rotture di scatole, ne cavano, non si spezzano. Le recupero, le metto a posto, cambio attività, non le faccio, continuo ad andare in aria e in ascolto e a fare 2 chiacchiere a livello europeo con il mio dipolo e basta. Ma c'è un vento pazzesco, non so a quanto siano le raffiche, ma guarda, allucinante, per stare dentro casa in campagna ma ne sono tornato. Mi stiamo arrivando, tranquillo a mettere a posto la roba da pranzo perché la mangiamo qua stanotte, non si boccia. È un vento allucinante, bisogna giudicare, serrato dentro. Campagna si va per stare all'aria, non per stare dentro. Vabbè, dai. Ci sentiamo, ciao Antonio José, io rimango in quel X perché mi devo sistemare. A dopo se coincide, se no buona serata a tutti, vai ti. Stiamo già perdendo 1-0. Non so ancora, la partita non è iniziata. Già iniziata e sta perdendo 1-0. Tino, ne ho voglia, c'è un sacco di cose da fare, vuoi mettere a posto tutta la roba che ho portato alla campagna. Allora, ci sentiamo dopo. Ma io questo volevo, guardami questo segnale e poi te ne puoi andare, così almeno ti lascio in pace. 9-10 questo è. 10 cosa? 9+10. Siccome ho abbinato questo, vedi, guarda. Ecco qua, come è cambiato ora. 9-20, da 9-10 a 9-20 la radio non cambia, va bene. Bravo, ciao, buona partita. No, non ho girato metà partita io, non ti preoccupare, c'ho altre cosette che ho fatto un po' di bietto, un po' di finocchietti, mi devo pulire, mettere in freezer, eccetera, eccetera. Ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao. Ho detto di non guardarmi Giulio, no, manco oggi lo vince il campionato, perché il muro è un campionato, eh. Hai compreso che non le vince il campionato. Sì, vabbè, adesso vediamo, è appena iniziata la partita, dunque. Lascia perdere, meglio il sorso. Ma non prendo Renato, ciao Giulio. Ciao, ti sto guardando la partita. No, ormai è stata un gol di fortuna che hanno avuto, dai. Poi si è trovato solo, si è trovato con molti per terra, guarda. Adesso già se le prende, a tutti i dini, io finisco della partita ancora. Va bene, signori, non è che mi devo spostare. Sentiamo le prossime, se coincide più tardi. Poi lascio mai che io. Sentiamo più avanti, Niente, già fa. Ti saluto. Sì, ok, ciao Tino, buona serata. Anch'io rimango in ascolto perché devo riparare una cosa adesso, visto che il vento sta portando via, tanto per cambiare. Va bene, Ciao Giulio, buonasera anche a te. Rimango ad ascolto. Tanto sono ancora attivo in codice, però devo fare il post, quindi devo mettere la mano in pasta. Ok, ciao ciao. Chi è? Avanti. Ciao Daniele. Ciao Massimiliano, mi hai sentito? No. Lei trova il messaggio? No, non mi è arrivato nulla, aspetta, guardo. Ciao Massimiliano. Sì, ciao Tiro, buonasera. No, io ho acceso adesso, aspetta. Motozappa? No, l'ho ritirato il motocoltivatore. No, non vedi che tutto contento. Prova, glielo sento. Sì, l'ho letto adesso, Daniele, scusa. Cava, non c'è problema. Guarda se senti i rumori di sotto, Massimiliano. Mollalo fisso. Sì, appena. Mi ha detto che quello è dalla scheda Ecco. Va adesso però, spinge. Cava, va, sto usando, se no, 2 watt e mezzo. Se no, 15 adesso, Cava, ora aiutino sotto, che sta spingendo 40 modulati. Prova a sganciarlo invece. Guarda adesso, ora la cipolla. Fai da 8 a 9,5. Cava, sono 2 watt portante bianca e 4 modulati. Ma è possibile questa cosa? A me lo metto dice, se lo metto a 10 ne spinge 20 watt. Anche così, anche il mio era così, Albino lo fa. E io. E anche questo. C'è questo, altro. Massimiliano, dammi un controllo così, come stavano questa radio? Questo è Lincoln, con il P4. Vai, innescare, vero? Dai, ci vuole la massa. Guarda così. Così è buono, ma devi abbassare appena, è troppo forte la radio, cioè è comprensibile, però secondo me se abbassi un pelino è più bella. Ma sono volute voi, io tengo come mi dicono, guarda così. Così è più bella, tanto inutile avere questa radio forte, poi è brutta da ascoltare, capito? È vero, guardami il segnale, guarda un po', se sta andando. Lo stupido stai facendo. No, 747, non è che... così lo sta, come dici, quanto fa. Così è attaccato. Così sì, un pelo arrivare sul 30. E così invece è attaccato, senza niente. 9,10. Allora già va, dai. Certo che va, fa voglia. Il mio segnale è buono, invece io sono con un watt. Con uno? Sì, uno, però ne ha più di 30 modulati, Infatti. Diciamo che fai 9 e si accende anche la penultima tacchetta, capito? No, questo qua l'ho voluto mettere qua, ti ricordi che andava in saturazione questa radio? Adesso ho toccato nuovamente il watt, gliel'ho abbassati e gliene sto dando 3 credo, in entrata 4, non credo di più. Così vuole, tanto è inutile, se lo porti con più watt poi va in saturazione. Ma a voglia per la città ce ne pare buche, magari in lontananza magari è anche più bella la radio, perché giustamente magari ti ascoltano più forte e non senti tutta questa saturazione, capito? Invece così in vicinanza la senti proprio che la radio è troppo forte, quindi va quasi a saturare. Vabbè, ma infatti io stavo chiedendo quello, se andava in saturazione o meno. Se non lo dite voi dall'altra parte del filo, come faccio? KK, prova a abbassarla ancora un pelo, prova a abbassarli, tanto ce l'hai da fuori, no? Dall'esterno i watt, prova a abbassargli un altro pelino. Di watt? Va bene. Guarda così, 1, 2, 3, prova, l'ho abbassato. Non so quanto sia adesso perché ho attaccato l'HP 2001. No, già rimane carina, però era meglio prima, va troppo forte la radio. Vabbè, la radio la possiamo abbassare, non è che... E prova allora a abbassare la radio un altro po'. Qua, la radio è abbassata. Così potrebbe andare. Cosa dici, Daniel? Cava, già può andare così, dai. Tanto di più non si riesce a fargliela schiarire. Sì, ma perché quello è il tipo del radio, secondo me. Capito? È il tipo del radio che è così. Guarda adesso, Massimiliano, cosa è successo? Se sente ancora quel sibilo? No, così non lo sento. Zero? Tutto chiuso, c'ho appena di ecco e basta. E la radio al massimo c'ha il mic gain. Me l'ha tolto la regolazione del mic gain, mi ha messo, a posto del mic gain mi ha messo la velocità dell'ecco. Sai che vuoi il gabbo? E perché lì? E il watt come li aumenti, li abbassi, come fai? Il watt ce l'ha apposta dello squelch, l'ecco lo apre e lo chiude dall'RF gain. Ma la radio non lo va a toccare, no? Scusa. Sì, ma Albini è così, anche a me ha fatto una cosa simile. Ma io dico a me, mettete un potenziometro anche dietro. Scusa, se vuoi aumentare la radio, come fa adesso? Già regolata da dentro, Massimiliano. Sennò bisogna aprire e regolarla la LC da dentro. Non è che ti ha messo qualche potenziometro all'interno, no? Che puoi aumentare. La radio non è che sta lavorando al 100%, Non lo so, sta combinato. C'è un potenziometro, ho visto dentro, però non è stato lì a dirmi più di tanto. Ma io non ne comprendo. No, la radio poteva lasciartela. Capito. Vabbè, cosa vuoi ti dico? A me non mi piace, Massimiliano. Vabbè, meglio di prima sicuramente, almeno. Io, Daniele, te l'ho già detto lì a Motorzappa, no? Cosa avrei fatto. Quindi deciditi, perché adesso riesci a darlami così. Cava, se troviamo qualcuno io problemi non ne ho. Problemi non ne ho, vai, quattro volte la metti nei mercantini. Cava, avanti, clà. Ieri, stavo pulendo un po' di verdura, stavo andando anche la partita, la squadra dei Garabri, fu giocato con Giosci. Per prove hai fatto Tino. Scusa, clà, che sono in verticale, la riprendo subito. Ehi, cazzo, c'è un vento, Massimiliano, allucinante. Allucinante. Già lo so, clà. Noi dobbiamo, più tardi dobbiamo salire noi dalla mia socia che non sta molto bene, quindi non ci scendono qua oggi. Ehi, non li fai uscire. C'è il vento, è freddo burro. Allucinante. Ma raffiche di vento, sono uscito, quando siamo rientrati poco fa, guarda, addirittura anche andiamo a giocare sul tetto, 45 gradi la verticale, e le direttive che si spostano da destra a sinistra con queste raffiche di vento allucinanti. Se parte il blocco del cuscinetto, la gente si antenna, la ginara. Non parte il blocco, non ti preoccupare, non voglia, che va bene. Là ci sono i tiranti. No, il blocco del motore sto dicendo tiranti, non impara mai così, tira a 130 km orari, no, non c'è nessun problema, che non è che si spezzi il palo e non è che ne scenda, è che si sblocca. Il calcio del rotore gira tra se stessa con l'antenna mia, cos'è? Quasi si arrotoleggia. Ehi, acca, che le stavo mandando un vocale a Daniele. Ehi, Daniele, ascolta quello che dice Massimiliano, che lui l'esperienza ancora in radio ce l'ha più di te e più di me, e forse anche più di qualcun altro. Ascolta e fai quello che ti sta dicendo, buon gattino che c'è radio, adesso che la puoi vendere, che è messa apposta a vendita, segui le sue direttive come fa lui, mercatino e via, te ne compri una come Cristiani, se ti piace quel tipo di radio, già ce n'è, mi pare neanche una Massimiliano la parte, quindi. Oh, bravo, sono rientrato, Stavo dicendo poco fa? No, siccome Massimiliano mette bene in situazione, abbiamo abbassato un pochino il fatto. Matti, te l'ho detto anche l'altro giorno, non fa testo con lui, siete troppo vicini. Io non lo sento Satura, te l'ho detto poco fa. Così va male. Secondo me era meglio prima. Vabbè, non puoi accontentare uno all'altro, quindi trovate un altro incontro. Non lo so, vabbè, il watt come sono, il segnale come lì, ho passato solo il watt. 9.20, sì, ma un compromesso non lo puoi trovare quando c'è vicino di casa che tu usi l'amplificatore. Per avere un compromesso non devi usare l'amplificatore, allora lui non ti dice che satura e io ti dico che va bene, o viceversa. Se però tu dai potenza, lui è troppo vicino per te, ce l'hai di fronte, è chiaro che ti dice che la modulazione è satura, mentre da me invece non è satura, quindi, ma te lo può dire chiunque in lontananza che è così, capito ti? Bravo, io secondo me, io l'ho già detto anche a Tino, secondo me è il tipo della radio, perché sono sicuro al 1000 per 1000 che lui si accende un'altra radio e gli attacca l'amplificatore, lui non è saturo. È il tipo della radio, secondo me magari, che spinge troppo. Anche per me è così. Ma infatti ho abbassato proprio il watt dell'apparato proprio per evitare questo, Massimiliano. Perché se lo metto nel 48 è di lusso, non ti dà la differenza. Ma è lui che stai usando. E allora ti, perché non fai così? Ti usi quella radio, te la usi normale, diciamo così normale, senza nessun amplificatore, perché tanto qua a Sassari parli tranquillamente con tutti, e ti attacchi un'altra radio con l'amplificatore, e così non hai questo problema. Ti abbini quelle l'MB più 4 e con quella lì ci parli tranquillo, per fare due chiacchiere qua in città, con quella ce n'è per i maiali, secondo me. Sì, ma infatti guarda, così è staccata, così è staccata. Poi dite come voi che era una prova, perché mi è arrivato questo qua, ho detto adesso lo provo in questa radio e vediamo se va, ma sapevo già che non andava. Eppure è strano, perché il 747 si abbina con tutte le radio, eh. Io ce l'ho 747 sull'Alan 48 normale, senza essere mai stato modificato. C'ha 8 watt, perché Gigi me l'aveva portato 8 watt, le lascio 8 watt e non satura. Aspetta, ma adesso come va? Adesso è uscito a metà, eh. Ho detto adesso va bene. Guarda, io adesso provo a fare tutti i watt, guarda, guarda così. In saturazione sta andando. Sì. Ah. E io ti ho detto sì. Sì cosa? Sta andando in saturazione. Tu mi hai chiesto, sta andando in saturazione, ti ho detto sì. No, ti sei incantato il dito. E guarda così invece, l'ho abbassato. Un po' meglio, abbassa. Oh, guarda un pochino adesso. Adesso è chiara. È più chiara. Guarda ancora, sto abbassando io sempre. Sì, ma non è che l'hai bugato tutti i watt, no? Ma c'è il watt metterlo davanti. No, ce l'ho staccato, non gli ho voce. Di fare nuovamente gli attacchi e sono attaccati in un'altra radio. Oddio, solleva la radio, il watt, un po', solleva. Una bassa, l'altra solleva, vedi? Ora, qua. Vedi un pochino così, tanto saranno 7-8 minuti. Così è già buono, per me. Ma non ti ho aiutato a abbassare il watt, sei tu che hai detto sto abbassando il watt, Tino, eh. Guarda così. E se metto che lo saturo, è logico, adesso non senta niente, Così la radio è bella, per me. Daniele, tu come lo ascolti? Daniele forse è allontanato. Così va bene, mio cla. Sì, sì, va bene, va bene. Va bene, non è lui che si muove col microfono, ci parla solo, non lo so. Io non la sento bella questa. Io di radio di Tino, bella, da 9, non da 10, da 8, da 9. E in lui si senta niente, basta. Gli altri le sento sempre leggero, una leggera... non è chiara. Cosa vuoi che ti dica? La radio è questa. Per quello sto utilizzando questa, stavo guardando se si poteva abbinare o un microfono o l'amplificatore, se no non faccio l'uno nell'altro, lascio così. Hai capito? Ma che radio è questa? Che tu oramai non oggi più compreso, già sei trattenne. Questo è il presidente. Ora che tu gatto di meglio, sì. Ma la partita del gomolo che tu bregi, non sapevo che radio è, ragazzi. Ma non ci riuscirai mai io ti posso dare radio buona col presidente, mai. Si vede che sei pensionato. Non mi piace di questa radio, io la sento sempre satura, la sento sempre compressa. Puoi abbassare quanto vuoi, io la sento compressa. Vabbè, cosa vuoi dire? Adesso metto qua anche l'amplificatore. cazzo, ma non tutti i marocchini che vai, doppio rubrici, devi attaccare il 747. Attacca il 747 a Ruiz a vedere se è satura. Ma te lo vuoi sul baracchino? Vuole, messo a posto quel baracchino. Ha ragione Massimiliano, è la radio, non c'è niente da fare. Sì, sì, è la radio, secondo me è la radio. Perché mi sembra siamo stati una sera provando, abbassando watt, alzando, è la radio quella. Cazzo Massimiliano, io la sento sempre satura, boh, abbiamo fatto mille prove continuo, non riesco a sentirla bene, pulita, niente, la sento sempre satura. No vabbè, staccato senza niente non è satura, però già è bella, capito? Però sicuramente abbinando l'amplificatore non va bene quella radio, boh. Non so se è stata un po' scacciavettata da qualcuno, questo non te lo so dire. Credo proprio di sì, Massimiliano, era una cosa parcheggiata in una cantina e vabbè, lasciamo perdere. L'abbiamo ripulita all'interno, era tutto ossidata. Sto cercando di, domani la farò ricontrollare, la farò allineare, ma al momento se va bene così la lascio così. Così la puoi usare tranquillamente, Oti. E tanto usate una foto per fare due chiacchiere così a voglia, va bene, è inutile tanto arrivare 9.20, 9.30, 9.10 e poi la radio fa schifo. Io preferisco arrivare 6.7 e la radio sia bella, capito? Cioè perlomeno io la penso sempre così. Sì, sì, ma infatti era una prova perché mi è arrivato ieri e ho voluto provare se è andata. Ha detto solo mio, se va bene l'ho staccato al momento. Che mi dovesse servire lo accendo, ma era una prova, capito? Beh, non lo puoi attaccare a un'altra radio, lasciarlo sempre attaccato a una radio, questo 747, e questo president lo lasci libero, senza nulla, intanto non funziona bene quando tu le dai potenza a T. Eia, era una prova, l'ho attaccato dall'altro quello con l'eco, adesso faccio sentire quello con l'eco, dai, tappo l'antenna e ti faccio sentire quello con l'eco, vedere se cambia qualcosa. 10.000 controlli abbiamo fatto. Non te l'ho dato stamattina, quando hai trovato il controllo? Boh, non me ricordo. Aspetta. Lascia ritaccare l'antenna. Vediamo un po', Daniele. Ehi, Massimiliano. Guarda adesso, adesso è al massimo, E cos'hai al massimo? L'eco. No, ti ho messo i watt, stanno con i suoi watt normali. La radio. Anche quando era rotta quella radio, con i watt chiusi aumentava parecchio, capito? Anche se c'erano due watt, ma da voi io non riesco a capire cosa ha combinato, no? Nel senso che lui te la doveva fare con due watt, con i watt tutti chiusi, doveva farti i picchi di modulazione, non che da 10 watt in poi, da 10 watt va a 20 watt. Mi sembra strano che quando tu chiudi tutti i watt da 2 watt va a 4. È un bel strano se la radio è Massimiliano. Claro, io quella radio l'ho usata per anni. Per anni e io usavo sempre con un watt e mezzo addirittura e andavo intorno ai 18 modulati. Con un watt e mezzo, mi battevo gol, però bella, corposa. Aumenta l'eco, Daniele. Attento, Massimiliano. Ehi, allora se faccio... Sì, aspetta. Ora, aspetta, Ora, ora. Dimmi chi viene da... Troppa manetta. Ah, ecco, sì, adesso va bene. Vedi, così attaccata. Vedi, va bene, però. Quindi, quello ti fa capire che gli amplificatori attaccati a quella radio non vanno bene, perché tu hai provato anche l'altro e non va bene lo stesso. No, l'altro va benissimo. Allora va bene. Sì, questo va bene. Aspetta che voglio mettere a posto un po' anche quella di Daniele. Vai, Daniele. Aspetta, adesso... Troppo veloce adesso, ecco. Va aumentato, com'è? Ma da fuori o da dentro? Da fuori lo regolo io. Aumenta ancora. Aspetta. Guarda adesso com'è. Mamma mia, adesso ecco a toccare due. Lascialo così, lascia. Daniele. Perché sennò posso anche venire la ripetizione. E da dove? Dall'interno però. Da fuori. E allora diminuisci la ripetizione. Guarda adesso. È ora e tre. Aumenta un altro pelo. Aumento? Guarda un po'. E chi gli dà così? Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don rosso a gambe larghe come il vattino. No, perché quello lì è il profondo rosso. Allora vedi, questo è attaccato al grande, eppure non credo di solo. No, quello va bene. Ma perché, aspetta, scusati, ma perché, Daniele, cosa ti ha fatto? Cioè, tu puoi aumentare il volume dell'eco e puoi aumentare e diminuire la ripetizione. K, tutto da fuori. Ma te l'hai fatto fare tu così? No, c'era già, in teoria, l'eco, aumentarlo e diminuirlo, c'era già da prima. Lui ha solamente messo la ripetizione al posto del mic gain. Quella cagata ha fatto. E allora fa una cosa, l'eco, portalo tutto al massimo e fammelo sentire. Aspetta, così è tutto al massimo. Prova a fare cambio, vediamo un po'. Cambio. Ah, ecco, allora adesso gira bene, ma è come ci parli tu, Devo prendere ancora dopo le misure. Intanto che microfono stai usando lì? Quello Midland nero, il 4190. Ma è come ci parli tu, dai, perché sennò già gira bene. Oh, magari sarà pure la mia tecnica di voce. Ce l'hai a me finta che rimbali dell'elicottero, Becchi. No, perché hai visto quando lui ha detto cambio come ha girato bene l'eco? Ma lui cambio, e poi ha fatto il giro, cambio, e mi dà la voce forte, e intende il rullante c'è radio. Però io, Daniele, l'avrei aperta per vedere se c'è il potenziometro per aumentare un pelino la radio, perché è troppo basso te l'ha fatto. Se devo toccare la LC sua. Massimiliano, non serve a niente quel microfono lì su quella radio, ci vuole quello nero dell'AM o quelli, ti ricordi? Quelli della Fayette con la retina. Qui CTE ci va bene. Bravo, qui CTE. Ma io, claro, ce li ho i CTE, la verità si dica, mi trovo meglio col Midland, quello che c'ha proprio lui. Aspetta un attimo, mi stavo chiamando. Anche io, Massimiliano. Anche per me va bene così. L'altro va proprio di amplificazione sicuramente. Il Midland originale secondo me è ideale. Quello nero che ti ho dato io non va bene perché ti. E quello l'ho abbinato con Moto 5 poi, l'ho abbinato con Lincoln, però va bene molto con il Midland. E basta bucanino dal presidente. Ma tu genero e lo metti al Midland. Ma il Midland ce l'ha, capito, per quello che l'ho avviato al Lincoln, perché il Midland ha l'originale suo. Ti ricordi che c'è un nuovo microfono normale per così? Cosa ti è entrata l'aria? Ho detto che mi serviva un microfono normale per il Lincoln, non per il Midland. Il Midland ce l'ha. Ma quello nero rispetto all'altro celeste mi sembra che sia, mi vada meglio, mi sembra che vada meglio, perlomeno io ho quello dell'AM 48 originale, ad esempio con la radio modificata non va bene. Infatti. È una rottura di balle, non sai cosa abbinare, non sai cosa, manco male io via. Lascio le cose così, se no mi viene il morbo di Alzheimer, non tutti i microfoni, prova che ti provo, non ne comprendono, accidenti. D'accordo, là, però se tu non so cosa provo, non riuscirai mai a fare una combinazione giusta. D'altronde devi stare a provare e accettare ciò che ti dicono, perché tu, come fai, tu potresti mettere un bel microfono, un parlo più tre, ti faccio un esempio stupido, con un Rus che calza il pannello, magari la regolazione c'è una cagata, per dire, capito? Sono un prodotto come gli altri. No, ottimo, io non ne ho di niente da provare, io i microfoni sono abbinati. Con quello Colt c'è l'AM International, rimane quello, basta. Con l'AM 48 normale c'è il microfono suo originale, basta, non ne ho prove da fare. Però dico voi, per fare gli abbinamenti microfonici, bisogna trovarne uno serio, io mi sono sempre trovato bene con quelli della CTE, anche quando avevo l'Alan 48 Colt, c'era il microfono della CTE, non c'era il suo originale, l'avevo comprato da Gigi. Sì, ho capito, però voglio dire, non è da fare perché tu hai il radio già completo, già testato tutto quanto, però se ti metti a fare delle prove con un barattino e non sai cosa utilizzare, cioè non fare prove, non fai sapere cosa utilizzare, capito? Sono rientrato, eh? Ah beh, certo che sì, no, io le prove, lì. Le ho già fatte a Massimiliano, gli abbigliamenti erano quelli e basta, io ho ristaccato tutto e ho messo tutto normale. No, tanto io, quelli lì sono radio che non posso neanche usare perché l'altro giorno l'ho usata con Massimiliano, l'87 Colt, lineare attaccato, abbiamo fatto due passaggi all'Andre Caraibi. L'indomani mangiamo me ne è piombato l'amministratore, ma è stato disturbando tutto il palazzo, quindi l'ho staccata e l'ho messa dentro l'armadio. Faccio bene, sta andando il microfono qua. Sì. Vedi, manco accorto te ne sei. E questo è un altro di microfono, con la stessa radio. E questo è un altro Midland. No, l'altro è la migliore dentro. Sì, tu me... Claudio mi ha detto va bene. Tu mi hai chiesto se va bene, io ti ho detto sì. Se mi chiedevi se c'era differenza ti rispondevo come Tino. L'altra è più corposa di questa. Ma non di Bogo, Lumbè. Ho capito, là. Questo è il suo microfono che ci deve stare qua. Non penso proprio. Questo è quello di prima. Tu prendimi sì. No, cla, se vuoi ti mando anche la foto, questo sono quello. Quello che ho fatto con le luci, che si accendono le luci blu, verde e celeste, mi pare. Poi siamo messo a fare che mi hai dato, in mezzo a tutta la butta quando sono sceso lì. C'è una cosa che la metto nel cassetto, come apro il cassetto si accende la giura, celeste, cos'è? E cosa messo? Cosa ti ho dato, blu? Sono due LED attaccati in una biandrina. Quando li muovi si accendono, apro il cassetto, ogni volta mi viene asciutto, si accende, diventa tutto celeste il tuo garage. Quelle avevo rubato io una pallina a mia figlia che quella che la buttava in terra e si accendevano i LED e mi servivano quei LED, capito? E io invece sono andato a finire in quella busta, non è il gioco. Ascolta, Claudio, guarda, questo qua è il microfono nero che mi hai dato tutto, quello dinamico. Sempre con Lincoln? Esatto. La modulazione è buona, non è che non è buona, però io la sento sempre satura. Ecco, aspetta, ti faccio sentire l'altro, quello nero che stai dicendo tu. Quello che ti ho dato io è questo, eh. Eia, questo è quello dinamico, quello nero, sto nero. Aspetta un attimo. Ok, Midland, metti l'altro, vediamo se c'è differenza. Guarda, questo è l'altro del Midland, quello diciamo nero con Dan Up. Questa è una Gina. Questa è una Gina, infatti. Ma è sempre la radio, perché se quei microfoni tu li metti su un 48 normale, o su qualsiasi tipo di radio, sai quanti microfoni ho provato su baracchini, microfoni del cacchio, e tu riescono sempre bene. È la radio, eh. Aspetta, e questa invece è il CTE, lo vedi? Il CTE va molto meglio. Non ha cambiato molto, eh. Sempre nasina, eh. No, questa non è nasina, va a arrivare più metallica. Questo è il GTE. Vabbè. Comunque, è orecchiabile, non è che, attenzione, si può ascoltare, attenzione. Sì, alla grande, tutte e tre sono orecchiabili, però se vogliamo la perfezione è così. Sì, ma infatti se vuoi, il CTE per dire va bene con il Midland, è migliore secondo me. Va bene, sia quello che il microfono Midland originale. Certo che sì, questa è la miglior radio che io posso sentire su tutte quelle che hai, perché questa è il Ruse con l'MB più 4, così è. No, questo è il preso del Lincoln con il più 4. Ma le comprendi domani, via? Sì, io ce lo capisco, ce l'ho capito, che era di nuovo Lincoln, si sente, claro. Senza lineare, è tranquilla, perfetta, bella radio. Adesso se vuoi ti faccio sentire il Ruse, così almeno... ti rendi conto, ma questo è il Lincoln con il più 4. Ma se tu questa presa di Lincoln la usi così però senza duccarla, così è perfetta, non sento saturazione, bella amplificazione, chiara, a posto. Se tu sollevi la potenza o mi attacchi un lineare, la radio fa schifo. Va va bene, questo è il Ruiz con il CTE, con il Palmare. Già, con il Palmare è quasi cante guida. Se ci metto il più 4 però ti rendi conto che esce meglio. Esce meglio così, a Giuma è cante l'obbligente con l'MB più 4. Buonasera. Va bene, no vabbè, questo tanto la devo lasciare così. Buonasera, avanti. Gianni sono, buonasera a tutta la ruota. Ciao Gianni, ciao. Stiamo sempre facendo prove indiscutibili con Claudio, Massimiliano e Daniele. Oggi. Oh, scusate, riprendo io che me la sento 10 minuti, dai, continuate. Dai, aspetta che regoliamo quella radio. Ci spostiamo un secondino, là. Ciao. Vai nell'otto, scusate un secondo, che regoliamo un attimo un po' questa radio, sennò mi ha lasciato in parcheggio. Ehi, ehi. Oh Gianni. Avanti, Claudio, ciao, buonasera. Allora, stavo provando quello strumento, non mi convince però. Non è preciso, preciso. Tiro l'altro, quello sempre per la ZG. Capito? Praticamente più largo, vai, più basso. Qui c'è il select, ti devi fare, metti in diretta, metti lo spiego come funziona, è preciso, lui deve aver preso qualche colpo, e a volte si inchioda la lancetta, lo devo controllare. Ok, ho capito, va bene, dai, poi chiaramente tu ne sei meglio di me, quindi fai tu. No, è utile che te lo do e vai a misurare, non segna. Ho preso il colpo dentro l'armadio e si è la lancetta, perché raghi incrociati, la lancetta deve essere che tocca una con l'altra, arriva a un certo punto e si ferma. Quindi lo devo aprire e controllare, però tiro l'altro che è dentro la scatola, è nuovo. Usi quello lì, sempre della ZG, però non è a raghi incrociati, capito? È più semplice di quello. Ci vuole macchina, ma non riesco a muovere, non riesco a trovare un minuto, adesso vediamo se domani riesco a trovare 10 minuti, se abbassa il tempo ci andiamo in campagna d'appello, perché veramente ha rovinato tutto. Io portare dentro casa, perché lì non c'ho niente, capito? Tocca stare dentro casa, guardando la televisione e sempre mangiando e bevendo, mentre almeno qua c'ho le radio e quindi me ne sono tornato a casa. Allora, se domani la giornata è bella, io vado in campagna. Se la giornata è brutta, ma sto a casa. Quindi stando a casa ho più possibilità di muovermi. Magari ti telefono e ci vediamo, capito? Kappa. Comunque ho sentito un attimino le sperimentazioni di Tino. Secondo me, anche a rigor di logica, è proprio il presidente che ha quel suono così, che anche se gli attacchi tutti i microfoni del mondo, praticamente il risultato non cambia. Questa è la mia opinione, poi discutibile o meno, questo è il mio parere. No, ma per carità, ma io accetto tutto. Allora, la cosa è subentrata così, che ho ordinato un piccolo rinvenimento, adesso lo provo sul presidente, vediamo se, perché ho attaccato il grande, andava molto in saturazione. Allora ho provato un piccolino, però se è dalla radio cosa si posso fare? Tanto è vero che l'ho rinvenato. Cioè, voglio dire, è chiaro che se esce un segnale sporco dal link, l'amplificatore non farà altro che giustamente amplificarti un segnale sporco. Questo è come la penso io. Vabbè, anche abbassando tutti i vari di entrata. Eh beh, certo, è come un amplificatore audio normale, di quelli, insomma, tu ci butti un microfono che suona male, lo amplifichi e il suono che verrà fuori sarà un suono brutto, quindi la logica mi porta a fare questo ragionamento. Sì, ma infatti abbiamo buttato per saltare tutto puro. KK, ok, ma gli altri sicuramente sapranno darti una spiegazione magari più competente. No, vabbè. È giusto una prova che volevo verificare, perché ancora non l'ho verificato. Tanto è vero che quel 747 è fatto per sopportare, per dire, la 2 sino anche a 10 watt, se non sbaglio, di entrata, quindi andrò andare in non dovevo rovinare la radio, al contrario del presidente che gliene puoi dare 2, gliene puoi dare 4, gliene puoi dare 8, però continua lo stesso, capito? Quindi è scomparso, lo abbiamo eliminato. Certo, certo. Quindi adesso stai modulando col presidente, giusto? No, no, adesso sono il 48. Ah, ok, ok. Sempre con il microfono, quello il più 4, giusto? Con il più 5. Ah, capo. Cioè che quello praticamente che usi solitamente, no? Cioè quello che usi spesso? Beh, sì, diciamo sì, questo l'ho lasciato sempre attaccato, più 5. Ok. Ho capito, ho capito. Sì, vabbè, ti ripeto, questo è quello che secondo me è, insomma, è la mia opinione, dai. Certo, per carità. Avanti, Cra. Quelli sono i risultati, sono quelli, non cambia. Le prove abbiamo già fatte. Ormai tu puoi modulare con questa, puoi modulare col presidente, sempre col microfono a tavolo, puoi modulare col Royce, puoi modulare con tutti i baracchini che hai, però l'importante è che gli abbinamenti siano questi, se no cambia tutto il baravano. Claudio, ascolta la radio di Daniele, se va meglio così. Vai Daniele. Guarda un po' adesso cosa è successo. 1, 2, 3, 4 e 5. A parte questa rottura di balle, di questo fruscio che c'hai sotto, che è molto, ma molto fastidioso, non devi toccare niente secondo me. Questa è la regolazione di quella radio. Ma non devi toccare nulla davvero, Baromi. Ok, però l'eco io la posso chiudere adesso, sì. Prova a chiuderlo del tutto. Guarda un po'. Ora, 1, 2, 3. Quante volte è più forte la radio, con un watt? Aspetta, ma ci vediamo, a me mi arriva 9,25. Questo fischio che c'ha sotto è una rottura di palle, ma non si può eliminare. Io non so cosa gli ha combinato. Hai provato, Daniele, a mettergli un paio di cuffie? Ciao Gianni, buonasera. No, Massimiliano, prova a attaccargli un paio di cuffie a vedere cosa succede. Ehi, prova a attaccargli un paio di cuffie, magari ti elimina questo rumore. Però questo rumore te lo dovevo eliminare, Albino, non si può sentire. Però la radio è bella, così è forte. Ciao già, avanti. Ehi, dai, buonasera a tutti. E cosa c'è, Daniele? Cosa stai regolando? Ha messo a posto quel 48 su, va. Ah, è arrivato. E gli è arrivato, ciao già. Gli è arrivato, ma secondo me Albino prima di Albino non voleva provare la radio, ce l'ha provata davanti a me, non c'è accorto in questo fischio, è poco fastidioso, ragazzi. E poi che andare a Recci, e cosa di munirmi i cuffi? Meno male che c'ho la porta chiusa, non ho bisogno di mettermi i cuffi, ma è una cosa allucinante quel rumore. Ciao Gianni. Ciao, mi sentite anche a te. Magari è troppo alto, guarda il parlascolta, devi controllare, perché a volte il parlascolta lo fa fischiare. Io non l'ho sentito, non ci ho fatto caso, però non ci ho messo l'orecchio, diciamo. Adesso magari quando parla ascolto bene. Va bene, Daniele, c'è anche già il profeta mio, già. Guarda un po' adesso cosa è successo. No, c'è sempre. Ma lui cosa ti ha detto di questo fischio, Daniele? Lui mi ha detto in pratica che cosa mi ha parlato? Dell'equilibrio della scheda. Devo usare l'equilibrio. Boh, gira la cabatera, magari un po' di più, cosa vuoi dire? Ma a me me lo vedo di Albino, veramente, ho avuto modo di conoscerlo. È una preparazione abbastanza buona su quelle radio. Ma come fa a consegnarti una radio del genere e dite che va bene? Cioè, ma mica è assurdo, È fastidiosissimo quel rumore, Daniele. Ma brutto veramente. E schiaccia la portante, non parlare. Gianni, senti come esce questo fischio che c'ha sotto Daniele. Sentito hai doppio rum? No, negativo, aspetta che provo a alzare il volume. Non l'ho sentito. Che sono lontano anche dalla parete. Dai, prova Dani. Sì, non è un fischio, è un rumorino che si sente sottofondo, ma non è leggero, non è fortissimo. Leggero, cazzo mi fai dei soldi, no? Forse perché a me mi arriva molto forte, non lo so. Guarda, te lo faccio sentire, Daniele. Te lo faccio sentire e te lo mando. Cioè, aspetta che abbasso la televisione. Felicia, ti dico io quando farmelo sentire, aspetta. Daniele, prova pure a cambiare il microfono, un secondo. Ehi, Massimiliano, ti metto l'originale Midland. Ehi, per vedere se fa rumore sempre. Cava, cava. Perché anch'io lo sento qua, il ritorno del fischio. Io qua lo sento un sibilo. Scusate un secondo, schiaccia la portata. Ok, adesso lo mando a Massimiliano. L'ho mandato a Massimiliano. Dimmi se io posso sentire una cosa del genere. Ma lo sento anche io, claro. Lo sento anche io qua, non c'è bisogno di mandare turno. Si sente sotto. Capito? Ah, lui ti ha detto che poi quando usi l'eco non si sente più. Lui mi ha detto che poi quando metto l'eco va ad attenuarsi. E prova a metterglielo allora, accendiglielo leggero leggero. Ma se tu vuoi fare qualsiasi senza eco, vedi tu bruscio. Prova a mettergli l'eco leggero. Aspetta, eh. Ora. Guarda un po' adesso. Vai, almeno faccio una cagata, vai, il fischio rimane uguale, cosa si attivo? Non si attivo niente. Hai visto? Cosa ti ho detto io? La stessa cosa che ci Massimiliano. Tino, guarda che te l'ho mandato, guarda come lo sento io. Guarda se fossi intendendo un po' di leggero, ma c'è di sotto. Guarda come lo sento, aspetta che è il telefono che è distante. Io lo sento un bel. Ma molto, mi, è fastidiosissimo. E guarda adesso, Cla. Adesso non si sente. Prova. Guarda. 1, 2, 3, 4 e 5. Allora che è il microfono. Questo è un altro microfono, No, sempre lo stesso. Ho girato. Avevo ancora l'impostazione che ho fatto poco fa con Massimiliano. Me l'ho dimenticato. Ho paura che passi una cara qualche albero qua. Allucinante, cazzo, sono rapide, allucinante. Cosa hai fatto adesso, Daniele? Allora, la manopola della ripetizione dell'eco l'ho girata tutta a sinistra, in senso antiorario. Adesso sembra che il sibilo non lo senta più, Claudio. No, non c'è più, che è diverso. Ecco, e c'è... No, è tutto chiuso, vedi, è tutto chiuso. Possiamo dire al contrario, ma cioè ti ha messo il coso della regolazione dell'eco al contrario? In pratica è come la scheda eco, no? Quando tu guardi il trimmer, ha regolato come fosse il trimmer della scheda, perché giri al contrario e diventa manetta, giri a destra e diminuisce. Ha perso orientamento almeno. No, claro, può essere, io anch'io ce l'ho una radio fatta così. Quello dipende dall'impedenza del potenziometro, capito? A volte quando tu vai a chiudere l'eco lo stai aumentando, quando vai a aumentare lo stai diminuendo, capito? Quello non c'entra niente, l'impedenza tra la scheda eco e il potenziometro, capito? No, quello non succede niente. Ecco, adesso che hai tolto quel rumore lì, accendi l'eco. Allora, 1, 2, 3, ora. Però, quello lì accendiglielo appena, Daniele. Prova a vedere se rifà il fischio. Guarda, devi vedere la ripetizione. Guarda un po', ora, ore 9. No, devi aumentare l'altro. L'eco? Eia. Ok, allora, guarda, ora, ore 12. E l'altro ce l'hai alle 9? No, l'altro è ore 8. Tutto chiuso a sinistra. E mettilo alle ore 11 l'altro. Guarda, così è ore 11. Aumenta, mezzogiorno. Adesso lo mettiamo mezzogiorno, guarda un po'. Ok, adesso l'altro, diminuiscilo un pochino. Allora, a mezzogiorno lo mettiamo così, guarda un po'. Però c'hai già, inizia a avere già, vedi, già quel fischietto sotto. Quello che gli ho detto io. Però io l'ho compreso, chi ti ha fatto che cagagata. Doveva lasciare lui la scheda a colto com'era e lasciarti la radio com'era, non metterti uno aumenti l'eco, l'altro diminuisci. Ma va bene, va bene. Puoi metterlo, allora, la ripetizione la metti alle 11 e l'altro la metti alle ore 8. Va bene, adesso ho chiuso tutto, intanto non mi serve adesso l'eco. Vabbè, ma giusto per se lo devi usare, capito, ce l'hai già bello che fatto. Vabbè, lascialo così, la radio la lasci con un watt, che spinge bene, ci sono gli ambiti di modulazione, adesso fai da 8 vai a 9,5, fratello Gonto, e va bene così, la radio va bene. Se era un pelino più forte era meglio ancora, però va bene, lasciala così. Va bene, dai, io me la faccio entrare che stanno aspettando 10 minuti, dai, arrivo. Continuate voi, poi vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. Ehi, e no che so. Gala. Ehi, ciao Daniele, allora, buona serata e buona continuazione, a dopo, là, se ci si. Avanti, ti. Ehi, ciao Daniele, ciao, già va bene così ora, mi ha migliorato tantissimo. Anda bene Meda. E poi controllo quel trimmer, tanto me lo ricordo qui. Come era messo prima, riportargliela. Come era in origine. Allora va bene, dai. Va bene. Avanti già. Ehi, là, ehi, là. E vabbè. Ma cosa ha fatto? La scheda cotta gliela porta. Ehi, a chi è? Chi mi sta chiamando? No, non gliel'ha tolta la scheda accolta, ha lasciato quella che c'era, però gli ha regolato tutto, va. Va bene, numero 3. Ehi, ciao Massimiliano, buonasera. Ehi, già va bene, dai, adesso va bene, va bene. Ehi, ehi, sì, va bene, però meraviglio che abbia fatto una cosa del genere. Devo lasciare tutto com'era, ma scegliamo. Fare la regolazione dei watt, quella roba che andava fatta e basta. Ha fatto queste modifiche e non si vede proprio a nulla. Perché lui se supera le ore 11 inizia a sentirsi il fischio. È un fischio che è bruttissimo. L'hai sentito, Tino, come lo ricevo io quel fischio? Sì, sì, infatti sono stato ascoltato, ma poi... scusate un attimino, perché mi serve la gente. Cosa vuoi dire? Non lo so, io così lo sento che è fastidioso, veramente. Non lo saccio. Vabbè, avanti, Gianni il profeta, dipendi. Ciao, buonasera, doppio room, hai sentito? Fuori... il parcheggio stasera è affollato e quindi gente che entra, gente che esce. Va bene, buonasera a tutti, risaluto tutti di nuovo. E niente, comunque, a parte il fischio di Daniele, se voi praticamente ci prestate attenzione, sotto si sente come il suono di un segnale Morse. Se voi con una portante in bianco sentite questo suono simile a un suono Morse, cioè io lo sento, non so voi. Quello è che ho mandato a Tino, è proprio, hai detto bene, sembra proprio un segnale Morse, perché sembra proprio il tono di un tasto di CW, capito? Che è derivato dal fatto che c'è un rientro lì nei potenziometri che lui ha regolato, ha fatto sta modifica, non lo so, ma è un suono allucinante, è proprio una punta di acuto che ti senta prendere il raibello. Sì, sì, è come un suono morso, un segnale morso sotto, in sottofondo, quando lascia un po' di bianco lo senti di brutto. Secondo te uno deve modulare così, cioè ti butto la radio a cuzza e invece dammi la contra, me la dai con delle modifiche che non vanno bene, io gliela avrei riportata a Massimiliano. E beh certo, ma io mi avrei fatto togliere anche questo coso, cioè la radio non la dovevo toccare, il Mickey Gay lo doveva lasciare com'era, non mettermi la regolazione della ripetizione lì, ma non si muovendo. Certo, nel Mickey Gay ha messo la ripetizione. E c'ha un pomello del 48 che fa... l'eco, e nell'altro pomello dove c'è il Mickey Gain gli ha messo la ripetizione dell'eco e ne ha bucato la radio. No, ha perso l'orientamento Albino, assolutamente. Mickey Gain, se io voglio usare la radio normale che chiudo l'eco, io il Mickey Gain me lo sollevo come pare piace a me, ma non che na, cioè non si fanno queste cose, cioè alla fine cioè, che radio sto usando, cazzo? Cioè, se io la voglio trattare normale, non la posso trattare la radio. Sì, la usi normale, come te l'ha regolata lui, però. Se ti serve un po' di radio in più, non puoi aumentare perché ne ha tolto il Mickey. Scusate, è che c'è gente in casa. Mi senti come lo sentivo a Claudio? Aspetta, Lo so, anche io lo sento così. Io invece no, io era, dovevo mettere giù, dovevo sentire l'altro per sentirlo così, con questo no, capito. Va bene, dai, devo lasciare purtroppo, ok, insomma, purtroppo è arrivata gente, quindi devo... fare il numero di casa. Ci sentiamo più tardi magari, se coincide. Ciao, divertite però. Ciao a tutti, ciao. 4:40 è così, è molto sensibile, io questo rumore mi dà molto fastidio, se magari attacco un baracchino non lo sento, non lo so. Avanti, doppio rum. Se devo essere sincero io lo sentivo, ma appena, non era così forte come l'ha fatto sentire il tiro. Io lo sentivo sì, ma proprio una cosa lieve, quasi non si impercettibile. Non lo so, magari anche dal tipo di apparecchio dipende. Già, io sto usando il 440, non sto usando un baracchino. La sensibilità è superiore, è un HF, non è che è un giocattolo. Non perché gli altri radio siano dei giocattoli, però è chiaro che con un HF anche Tino col 440 lo sente molto più forte. Col baracchino no, però già Massimiliano lo percepisce col Magnum. Tu lo percepisci, immaginati io con l'HF e lo sento, quello glielo ho mandato io a Tino, per farle capire come lo sento sto rumore, ed è brutto, bruttissimo. Mi dispiace Massimiliano, ha fatto una grandissima gagata. E a me dai, ma già si può rimediare, non è quello il problema. Si può rimediare. Lui lì doveva farle magari anche questa ripetizione, gli allungava due filetti dietro e glielo portava dietro e la radio la lasciava dov'era. Le metteva un potenziometro all'esterno, fuori, dietro, vicino dove c'è l'antenna, faceva un forellino e lo metteva lì. E vabbè, no. Meglio di prima sicuramente, eh. Prima non funzionava, quindi va bene così. Ciao Tino, buona serata. Ciao Tino, ci aggiorniamo stasera più tardi se coincide. Avanti, il profetto. Anche Tino sempre smanettando con Royce poco fa quando ha acceso un attimino l'altro apparecchio, devo dire che preferisco quello al presidente. Adesso vabbè, cambiando decisamente argomento, eh. Io gioco del barriere, quando la radio va bene lasci quello e boh, non è mica tu prendi, vendi e cose. Boh, io lo, forse perché sono stato abituato così, io va, accendo e non tocco mai niente, nulla. Una volta mi faccio le regolazioni, sono quelle e basta. E lui con quel presidente le abbiamo provato 1.000.000 di volte. Quel presidente Lincoln, quello lo lasciare senza amplificatore con l'MB più 4. Poi lui c'è perfetto. E la stessa cosa ti dico. Io all'87 chiuso sta radio, non tocco mai, mica viene quello. E così deve funzionare. Poi i baracchini, una volta che sono regolati, li lascio stare e va bene così. Però in questo caso facendo le prove così va anche bene, ma come sta facendo Daniele, io col baracchino così, l'avevi fatto, l'avevi trascolta, rimettimelo com'era, anche lui ci non mi piace, capite? Tutto qua. Vai più lungo. Aspetta, vado bene, abbasso un po' la televisione, classi, intendi tutto. Vado a prendermi da bere, che c'ho sé. Sì, sto ascoltando. Passiamo a prendere. Guardo le figure intanto. Fanisco di sempre, oramai. Per il momento si può andare a giocare con lo stesso. Avanti, doppio numero, riprendi. Ehi, ma dai, è andato via. Saluto a Tino, dai, che non ho salutato poco fa. Cappa, in effetti qua io ero col Magnum e Claudio, non è che ero con un GP2, ero col Magnum e non lo sentivo lo stesso rumore. Lo sentivo, sì, ma è una cosa proprio impercettibile, se ci mettevi l'orecchio proprio, se no non si sentiva nulla. Magari dipende il fatto che tu stai ricevendo con un apparecchio radioamatoriale, perché a volte lo fanno. A me quando c'avevo 140 mi faceva questo problema e dovevo mettere il filtro, perché sennò se non filtravo questi apparecchi potenziati, diciamo, arrivavano male. Non so, io ti ripeto, non lo so, però io baracchini modificati ce li ho e non ho mai toccato niente e va benissimo la grande. capito? Mai, mai gli ho toccato nulla, perché non è mia competenza. Quando va bene, come dice Massimiliano, lascio stare così, capito? Vabbè, avanti, un profetta. Sì, Daniele si è allontanato un attimo. Vabbè, no, saluta Tattino, già salutoni e casomai ci si aggiorna. Cazzo, il vento proprio è custurendi oggi, a quanto pare ne abbiamo ancora per un altro paio di giorni. Cosa, di vento? K. Volevo andare a farmi due bocconi domani mattina, ma c'è troppo vento. Anzi, è un aumento anche il vento. Sì, sì, è un ventaccio, maledetto, oggi. Ah, il vento però. Però mi hanno mandato una foto stamattina del mare ed è un olio. Dov'è olio? Ovvero. Ma è vento di terra allora. Sì. Ah, dove è vento di terra? Ma dove te l'hanno mandata? C'è greccare, arriva la Casa Sciarra, come fai se vento di terra? Te la giro la foto che mi hanno mandato. Da dove te l'hanno mandata? Così ti dico se il greccare tocca. Da dove? Da Balai verso tutta la torretta, no, per tutta quella costa. E lì non tocca, lì entra il ponente d'Assentino. Un olio, neanche d'estate. E lì entra il ponente d'Assentino. Prova andare a Maria di Giorgio a vedere se diverso. E cosa vuol ti dica? Vabbè, la devo fare. I venti in terra sono di becci scirocco. Questa greccare è forte pure, c'erano raffiche molto alte, ho paura che c'è un albero qua del pino che accorcia a cagini in altre macchine, ho anche telefonato all'amministratore poco fa, mi ha detto tienimi informato. Ce ne va la peruita. La macchina mia gli hanno la docca, non ti preoccupare. Avevo già segnalato da giorni che quest'albero non mi piaceva per niente, sta piegando troppo, si solleva dietro, nata vista che la ringhiera non su. Sai cos'è? Che il pino fa le radici lunghezza, non va in profondità, quindi se ha vento forte ne rappa subito. Infatti già uno è caduto nella strada. Dal giardino all'autostrada è caduto sopra una macchina, ci è costato 2700 euro di assicurazione perché noi siamo assicurati. Adesso questi all'interno, non vorrei che sfasciasse qualche altra macchina. I piedi sono sempre un po' così da piantare, quelli non ho piantati molto al centro perché tipo quelli di Platamone, visto cosa fanno, allargano l'asfalto, lo alzano, cazzo, non vedi gente caduta in moto lì. Caduta in moto? C'è il cognato di mio genero che esce via carrozzella e poi caduta in moto, caduto proprio lì. Tra il terzo e il quarto pettine, no, tra il quinto e il sesto pettine, capito? È caduto proprio lì con la moto, è seccato lo sbarro della segnaletica con la schiena, è vivo ma esce via carrozzelle, però, capito? È andato una barca di soldi, però non è quello il problema, capito? Anche più piccolo di Mario, c'ha 34 anni. Poi esce la carrozzella, però, è successo 5 anni fa. Greco. Bravissimo. Greco. Kappa. Anzi, diciamo che lo può raccontare. Già, ne sono uscite le bue là fuori. No, ma che? Una cosa impressionante quell'incidente, già. Ti immaginate quanti sbatti con la schiena a un palo di segnaletica, un bettuccio, l'ha aperto in due. Guarda, me lo voglio ricordare quel giorno, un ragazzo d'oro, ma io già vedi d'oro, non ci vorrà pagarlo quel ragazzo, e c'è una forza, tu devi vedere Massimiliano, ci siamo visti da poco, proprio alla veloce, tu devi vedere la forza che c'ha. Come ti si muove in macchina, come si muove, c'ha la... mi pare che l'abbia cambiata, adesso non mi ricordo se c'è sempre la lancia, o cambio automatico, tutto, ma c'è una forza quel ragazzo strepitosa, guarda. Ma me lo si dicendo, mica che con Emanuele siamo amici, abbiamo fatto anche il torneo di calcetto assieme, ma me lo stai dicendo, io conosco anche gli altri due fratelli. Noi eravamo come fratelli, capito? Io uscivo con lui in moto, uscivo. Avevo l'Ormet, ma ho detto quel giorno che è stata una cosa allucinante, una cosa allucinante. C'era Mariolino, resto di l'aria dietro me, con l'R6, figurati dietro di lui, immaginati di due. Oh yeah. se già sono cose brutte. Ma appunto questi alberi qua fanno questo gioco qua, perché le radici si espandono in lunghezza e non vanno in profondità, capito? Quindi creano questi dislivelli della strada, rigonfiano l'asfalto e magari uno che sta correndo con la moto non si fa caso, che l'alberi pieno si impenna la moto e si ammazza. Vabbè, lì a Platamone era tutto, è tutto pieno di radici, capito? E era camminando pure un poco, Sì. Lui adesso è amante dei bulldog francesi, mi pare ne ha 3 o 4. Sì, uno l'ha regalato a Mario, quello bianco che c'ha la sfida, gli ha regalato a Manuele. Sì, stavano camminando, stavano rientrando dalla cazzassata. Ho detto che c'era Manuele davanti e Mario sarà stato una cinquantina di metri dietro con l'R6. Infatti non ne ha più seduto Mario di moto. Non ha visto altro che volare. La moto è entrata in pinetta e devorando c'è tutto il rubaro della segnaletica. Ehi, te lo sto dicendo, è pericoloso. E vabbè, ti ho mandato la foto di Emanuele. Gappa, avanti, Baffè. Ehi, mi è sembrato di aver sentito un break sotto. Avanti. Oh, ho sentito un break un paio di volte sotto mentre stavate chiacchierando. Vabbè, ok. L'ho fatta un sacco di volte quella strada e non mi esprimo, quindi capisco di cosa state parlando. È un paio di volte, insomma, ho avuto qualche esperienza non troppo carina su quella strada, quindi capisco molto bene la situazione. Ok, dai. E niente, avanti, ho più room. Sì, vabbè. Queste cose, basta una pigna, io ho un amico che c'ha l'R6, sì. Ha trovato una pigna nella strada, cazzo, è andato trampato, ha preso questa pigna sotto la pinetta, se sono caduti malamente si sono fatti male lui e la moglie, tutti e due. Con Franco Carifo, tornando da Castelsano, domenica mattina, proprio in quella strada, tutti e due, abbiamo tirato sino alle indici, lì stavamo camminando come matti, no? Vabbè, poi proprio da lì, da dopo, prima di arrivare all'ingresso di Vici, abbiamo rallentato, fortunatamente abbiamo rallentato, perché proprio alla semicurva lì dove c'è il rio, il fiume, come si chiama, quello che scende lì col ponticello eccetera, no, la prima curva dove c'è anche quel ristorante a destra eccetera, lì c'era un incidente allucinante, due moto sono cadute, due turisti, c'erano le ambulanze, vigili del fuoco, un casino. Se entriamo in quella curva lanciata, se entriamo dentro all'autobot e vigili del fuoco, tutti e due, proprio per lo stesso sistema, uguale, hanno preso questo avvallamento, c'era un po' di sabbietta e sono caduti, non, diciamo, si sono fatti abbastanza male, ma le moto erano tutte e due distrutte, perché era una dietro l'altra, invece che erano molto vicini, come è caduto uno, l'altro viene brincato in alto, capito? Sì, sì, è pericolosa quella strada, bisogna anche saper camminarci. Beh signore, io devo salire a Sassari stanotte, là lì al solito posto, e niente, al limite ci aggiorniamo domani, va bene, buona serata, vi lascio, dai, stacco, riusciamo. Ciao Gianni, Claudio, che fosse un ascolto qua, là. Ciao. Ciao Massimiliano, dai, buona continuazione di serata, ci sentiamo. Ciao Massimiliano, e anch'io vi lascio ragazzi. Buon cambio a Gianni il profeta per salutare a Massimiliano, vi lascio, mi preparo e vado a portare il cane, dai. Dopo se coincide, avanti Gianni il profeta. Ehi, ciao Massi, buona serata. Buon tutto. E buon proseguimento, dai. E niente, cosa volete che vi dica? Io mi sto ancora zuffando col telefono, sto facendo varie sperimentazioni, vediamo un po' se riesco a riabilitarlo, se no quello vento che vai oggi, ti chiudo il baccone e sei scegliato va a piazzare i segni. Ecco, avanti. K, sono, mi sentite a tutti, sono Alfio Ricotta, mi puoi dare un controllo? Un attimo, eh? Ok, fai un passaggio. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pro. 9, 20, è la radio un po' bassina. Aspetta un attimino che ti ho con questa cosa. Hola, hola, hola, guarda adesso. K, ha migliorato tantissimo. Ringrazio, saluto a tutti quelli che ci sono in rotta. Ok, non mi ricordo il tuo nominativo. Ma, non mi ricordo il tuo nominativo, lo puoi ripetere, scusa? Alfio Ricotta. K, ben sentito Alessio, ben sentito. 9:20 alle Radio 5, l'ultimo passaggio. Ma ti ringrazio Alessio. Ciao Alessio, buonasera, ben sentito, cordialità e buona Pasqua. Chi è Alessio? Non sei tu, non sei Alessio Ricotta tu? Alfio, Alfio Ricotta. Ah, Alfio, Alfio, scusa, è Alfio, sì, scusa. Scusa Alfio, ciao, buonasera, ben sentito, dopo tanto. No, tu sei? Sono Claudio lo Sparviero. Claudio Sparviero? Sì, sì, sì, ti ricordi di me? Vagamente, è un segnale che conosco già, Sì, sono quello senza capelli, ti ricordi? Non mi ricordo bene. Purtroppo. Ok, sono a portare il cane Alfio, ti saluto, ti lascio in compagnia degli amici. Ciao, a presto. Appa, ciao, ben sentito. Passo il mic all'altra persona che non, di cui non mi ricordo il nominativo. Avanti Gianni Ropiorum, ci sei? Sì, ciao Alfio, ben sentito, cordialità anche a te. Mi hai sentito? Oddio, ti sento molto basso, non so da dove stai modulando. Comunque buonasera. Ma buonasera a te, qua arrivi forte e chiaro, Come? Arrivi forte e chiaro. Cappa, tu dove sei? Che zona sono? Da dove moduli? Giardini Valle Bella. Non ho copiato cosa ho detto. Non lo sento molto bene. Via Valle Bella. Ma vabbè. Non so se l'hai copiato di più che di più, ma non si sente bene, è bene. Via Baldena, ha detto, se ho copiato bene. Via Valle Bella, è una campagna. Che da Via Baldena dovrebbe arrivarmi con lo scala. Via Valle Bella. Ah, Valle Bella. Io sapevo Via Baldena. È una zona residenziale. Avanti, profe. Ehi, anche io, vabbè, anche io mi era sembrato di capire una cosa del genere, quindi siamo in due. Ok, avanti Alfio. Cappa, riprendete che sto finendo di saldare una cosa, così mi sentirete meglio, Cappa, ok, va bene, buona saldatura. anche io sì, doppio rumo, mi era sembrato di capire la stessa cosa che hai sentito tu. Anche se non so dov'è Via Valle Bella. Vicino a Via Piero Sacchi. Vicino? Via Piero Sacchi. Ah, ho capito. Andave, andave. Tu come lo senti ad Alfio? Gliel'ho dato poco fa il referto, 9:20, poco fa la radio era migliore, sicuramente sta facendo qualche modifica, adesso si è abbassata di nuovo. Oh, qua arriva Santiago 1, 9:20, proprio basso basso. Qui non funge, deve essere proprio attaccato a te, dai. Adesso sta migliorando sicuramente, guarda un po'. Sì, 9:20, avanti chi vuole entrare, avanti il break sul 10. L'assento, l'assento, con chi abbiamo l'onore di parlare perché non ti ho riconosciuto. Cava, cava, buonasera. Sì che l'assento, bassino ma già l'assento. Ogni tanto anche molti resuscitano. Si vede, ciao Benito. Ciao Benito! Oh, Benito! Mi hai sentito? Una alla volta, ciao Benito! Non mi sente? Claudio, sempre il Claudio, il mitico Claudio. L'unico, inaccettabile però. Inaccettabile, lo so, è da 40 anni che sono inaccettabile, ma purtroppo ci sono sempre. Sto scherzando, Buccalotto. Ehi, ciao. Abbigliare in culo, ti ho detto salutami, sono Claudio. Ok, adesso va bene. Tu quando saluti nome e cognome va bene. Dai, vado a portare il cane. Ciao Benì, fatti sentire che arrivi magnificamente bene. Avanti doppio route. Benì, da dove stai modulando? Poi vabbè, già si sente. Interessante è quello. Hai visto, ah, già, l'ho chiamato e detto, metti un po' a posto la rotazione, che so, ci ha pensato la messa a posto, hai visto? Va là. Mi fa piacere che sia rientrato Benito, là. E vabbè, quello si può vedere, là. Al limite si autocostruiscono di quelle antenne con la canna da pesca, se esci un bel forte. Ma gli apparecchi tutti ce li hai ancora? Quindi quello che manca è solo l'antenna, come si deve, dai. Un'antenna adesso provvisoria, va bene. Poi più in là, piano. Tutto bene per il resto, vedi? Proprio più visto i negozi, vabbè che sto facendo la sera. E adesso non so se ci ritornerò, boh. Va bene, vedi, dai, mi fa piacere sentirti. Avanti Tino. Quella. Bene, che microfono stai utilizzando? Allora per sapere che radio stava andando, eh. No, va bene, era così, giusto. Mettile, accendile un po', perché sennò già lo sai. Andare. Va bene, se metti un scuola anche stazionale perché non sta facendo bene massa con l'antenna. Sì, per questo. Se non va bene anche quella lì. Sì, già va bene. Va bene. Profeta. Ehi, sono qua. Ciao Benito, buonasera. Gianni il Profeta, centro storico. Segnale 9, radio 3. Sì, Gianni Lu Profeta. Gianni Lu Profeta, non hai sbagliato, è così. No, ma Benito ha capito un'altra persona, però. Ha capito Scroffetta. Mi immagino, per quello ho sottolineato. Aspetta. Prova a passare qui. Passavo con una curva, allora. Per me. Che ti mangi già? No, che devo cucinare la pizza. Mamma mia, anche la finisci di cucinare? No, già cucino. Sto bene a scambio, Che lo so, sono troppo vicino alla palacca. Cattivo. Ok. Ehi, prova. Questa è molto più bassa, però è Gianni, ho fatto corre X. Prova già nel bloccare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, attenzione Benito, mi copi? E io invece con questa tua radio, radio 1 proprio, non ho, segnale 9 ma radio 1, non riesco proprio a sentirti. Davvero? Attenzione, Benito, si ascolti, questa piccola stagiricina cambio bassa. Tu Benito. E questo è l'altro, il 48. Camera. Sempre quella. Sì, dai, con un altro 48 però. Già va bene. Non credo. Ti chiamo, dai. Già ti chiamo al telefono. No, ti chiamo dopo, che te lo dico le persone. Aspetta che c'è Antonio che mi sta passando dei messaggi, aspetta. Benito, quanto ti sto arrivando? 1, 2, 3, prova. Un bel saturo. I campioni siamo sempre noi. Claudio. Ero al telefono con Antonio, dovrò fare delle commissioni, però non combacia, non coincide il giorno. D'accordo, aspetta che ti chiama. Ciao Benito. Ciao Giù. Sto passando la massa, bene. Dai, rispondi. Ciao, sì, ciao, chiudo, ciao.